Co, si es un lo, o paga me, na colo di so, di so vivo, co, si so vivo, Oh,